tempo fa che non so neanche quanto. C'era un vecchio mare, un vecchio stanco mare che parlava un mondo. Gli diceva: sai, caro amico mio, non so più dove andare per sbattere le mie onde. Devo naufragare, io che sono il mare. E così anch'io, come il vecchio mare, anche se vecchio non sono così tanto. Devo naufragare per trovare nello specchio la mia vera faccia da indossare. Una faccia che non dà, una faccia che non. Tanto tempo fa che non so neanche quanto. C'era un vecchio mare, un vecchio stanco mare che parlava un mondo. Gli diceva: sai, caro amico mio, ho trovato il mio posto. Per sbattere le mie onde non devo naufragare, perché sono il mare. E così anch'io, come il vecchio mare, anche se vecchio non sono così tanto. Non devo naufragare per trovare nello specchio la mia vera faccia da indossare.